Ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie del sottosuolo di Fyodor Dostoevskij. Traduzione di Alfredo Polledro. Undicesima puntata. In quella notte feci dei sogni orribili. Non fa meraviglia. Tutta la sera mi avevano oppresso i ricordi dei giorni di galera, della mia vita scolastica. E non me ne potevo liberare. Mi avevano cacciato in quella scuola dei miei lontani parenti, da cui dipendevo e dei quali da allora non ho più saputo nulla. Mi ci avevano cacciato mentre ero abbandonato. Già oppresso dai loro rimproveri, già pensieroso o taciturno, e avvezzo a guardarmi intorno, smarrito. I compagni mi avevano accolto con maligne e spietate derisioni, perché non somigliavo a nessuno di loro. Ma io non potevo sopportare le derisioni, non mi potevo adattare così a buon mercato, come si adattavano loro l'uno all'altro. E li odiai subito. E mi segregai da tutti in una timorosa, esacerbata e incredibile fierezza. La loro volgarità mi indignava. Loro ridevano cinicamente del mio viso, della mia goffa figura. Eppure, che visi stupidi avevano loro stessi. Nella nostra scuola l'espressione dei visi stupidiva e degenerava in modo speciale. Quanti bei bambini venivano fra noi, e di lì, a qualche anno, suscitava disgusto perfino a guardarli. Ancora sedicenne, li osservavo con cupa meraviglia. Già allora mi stupidivano la grettezza del loro pensiero, la stupidità delle occupazioni, dei giochi, dei discorsi loro. Non capivano certe cose così indispensabili. Non si interessavano di argomenti così suggestivi e impressionanti, che per forza presi a considerarli inferiori a me. Non era la vanità offesa che mi ci spingeva. E per amor di Dio, non venitemi avanti con le obiezioni convenzionali, rancide fino alla nausea, che io non facevo che sognare. Mentre essi già allora capivano la vita reale. No, nulla essi capivano, no, nessuna vita reale. E giuro che questo, appunto, era ciò che più mi indignava in loro. Al contrario, la realtà più evidente, più abbagliante, la percepivo in modo fantasticamente sciocco. E già allora si abituavano ad inchinarsi nient'altro che al successo, di tutto ciò che era giusto, ma umiliato e oppresso, ridevano crudelmente e vergognosamente. La posizione la consideravano ingegno. A 16 anni discorrevano già di comodi posticini. Naturalmente, in questo molto derivava dalla stupidità, dal cattivo esempio che aveva sempre circondato la loro infanzia e adolescenza. Erano depravati fino alla mostruosità. Si intende che anche qui c'era soprattutto esteriorità, soprattutto cinismo ostentato. Si intende che la giovinezza e una certa freschezza trasparivano anche in loro, perfino attraverso la depravazione. Ma il loro non era attraente nemmeno la freschezza e si manifestava come una specie di bricconeria. Io li odiavo tremendamente, sebbene fossi magari peggio di loro. Essi mi ripagavano della stessa moneta e non nascondevano la propria ripugnanza per me. Ma io non desideravo più il loro affetto. Al contrario, avevo sempre sete della loro umiliazione. Per liberarmi dei loro scherni, avevo cominciato apposta a studiare quanto meglio potevo ed ero entrato nel numero dei primissimi. Questo era riuscito a incuter loro rispetto. Oltre a ciò, a poco cominciarono tutti a capire che io leggevo già certi libri che loro non potevano leggere e capivo certe cose, non comprese nel programma del nostro corso speciale di studi, di cui loro nemmeno avevano inteso parlare. Guardavano a questo con smarrimento e ironia, ma moralmente si sottomettevano, tanto più che a questo proposito suscitavo l'attenzione perfino degli insegnanti. Gli scherni erano cessati, ma era rimasta l'inimicizia e si erano stabiliti dei rapporti freddi. Alla fine ero io che non avevo retto più. Con gli anni si era sviluppato il bisogno di frequentar gente, di avere degli amici. Avevo provato a iniziare relazioni amichevoli con certuni, ma queste relazioni riuscivano sempre poco naturali e perciò terminavano da sé. Una volta avevo avuto anche un amico, ma ero già un despota nell'animo. Volevo dominare illimitatamente sull'anima di lui. Volevo inculcargli il disprezzo per l'ambiente che lo circondava. Avevo preteso da lui una superba e definitiva rottura con quell'ambiente. L'avevo spaventato con la mia appassionata amicizia. Lo conducevo fino alle lacrime, alle convulsioni. Era un'anima ingenua, remissiva, ma quando mi si era dato tutto, l'avevo subito preso in odio e l'avevo allontanato da me, come se egli mi fosse stato necessario soltanto per riportare una vittoria su di lui, per assoggettarlo. E nient'altro. Ma tutti non li potevo vincere. Anche il mio amico non somigliava a nessuno di loro e costituiva la più rara delle eccezioni. Il mio primo atto all'uscita dalla scuola era stato di lasciare l'impiego speciale al quale mi destinavo per rompere tutti i legami, maledire il passato e spargere le cene. E lo sapeva il diavolo, perché dopo questo m'ero trascinato da quel Simonov. Al mattino presto mi strappai dal letto. Balzai su agitato, come se tutto dovesse cominciare a compiersi subito. ma credevo che fosse imminente e senza fallo sarebbe venuto quel giorno stesso un qualche radicale rivolgimento nella mia vita. Non so se per mancanza di abitudine, ma in tutta la vita, ad ogni anche minimo avvenimento esteriore, mi è sempre parso che subito sarebbe venuto un qualche radicale rivolgimento nella mia vita. Del resto, mi avviai in ufficio come al solito, ma me la svignai a casa con 2 ore di anticipo per prepararmi. L'essenziale, pensavo, era che non dovevo giungere per primo, se no avrebbero pensato che mi ero rallegrato troppo. Ma di queste cose essenziali ce n'erano migliaia e mi agitavano tutte fino a sfinirmi. Con le mie proprie mani mi pulii ancora una volta gli stivali. Apollon per nulla al mondo li avrebbe puliti 2 volte al giorno, ritenendo che fosse un fuor d'opera. E li pulivo, li pulivo, li pulivo dopo aver portato via le spazzole dall'anticamera, perché Apollon non lo notasse in qualche modo e non si mettesse poi a disprezzarmi. Quindi esaminai minutamente il mio vestito e scopersi che era tutto vecchio, logoro, frusto, troppo sciatto ormai ero diventato. L'uniforme di servizio magari era in ordine, ma non si poteva mica andare a pranzo in uniforme di servizio, e soprattutto sui calzoni, proprio al ginocchio, c'era un'enorme macchia gialla. Presentivo che questa sola macchia mi avrebbe tolto 9 decimi della mia dignità. Sapevo anche che era molto basso pensare così. Ma ora non si tratta di pensamenti, ora viene la realtà. Pensavo e mi scoraggiavo. Sapevo anche benissimo in quel momento stesso che tutti questi fatti li esageravo mostruosamente. Ma che c'era da fare? Cosa potevo fare? Non potevo ormai più dominarmi e mi scoteva la febbre. Con disperazione mi figuravo come mi avrebbe accolto, guardandomi dall'alto in basso e con freddezza, quel mascalzone di Zerkov. Con che ottuso e assolutamente ineluttabile disprezzo mi avrebbe guardato l'ottuso Trudolyubov, in modo cattivo e insolente. Avrebbe ridacchiato sul mio conto quell'insettucolo di Ferfikin per ingraziarsi Zverkov. Come avrebbe capito bene fra sé tutto questo Simonov? E come mi avrebbe disprezzato per la bassezza della mia vanità e pusillanimità? E soprattutto, come tutto questo sarebbe stato misero, poco letterario, comune. Certamente, il meglio sarebbe stato non andarci per nulla, ma proprio questa era ormai la soluzione meno possibile di tutte. Una volta che qualcosa cominciava ad attirarmi, mi sentivo subito attratto dentro a capofitto. Tutta la vita poi mi sarei preso in giro. Ebbene, hai avuto paura! Hai avuto paura della realtà! Hai avuto paura! Hai avuto paura! Al contrario, avevo una voglia frenetica di dimostrare a tutta quella canaglia che non ero affatto così vile come me lo figuravo io stesso. Non basta! Nel più forte parossismo della mia pavida febbre, sognavo di avere il sopravvento, di vincerli, di trascinarli, di costringerli ad amarmi. Non fosse che per l'elevatezza dei pensieri e l'indubbio spirito. Avrebbero piantato Zverkov. Lui sarebbe rimasto in disparte, tacendo e vergognandosi. E io avrei schiacciato Zverkov. poi magari avrei fatto la pace con lui e avrei brindato al tu. Ma la cosa che mi faceva più male e mi offendeva di più era che già allora sapevo pienamente con certezza che in fondo non mi occorreva nulla di questo, che in fondo non desideravo affatto schiacciarli, domarli, sedurli, e che per tutto questo risultato, se mai l'avessi raggiunto, io stesso, per primo, non avrei dato un centesimo. Come pregavo Dio che passasse presto quel giorno. Con inesprimibile malinconia mi avvicinavo alla finestra, aprivo lo sportellino e contemplavo la fosca nuvola della neve bagnata che cadeva fitta. Finalmente, sul mio pessimo orologio da muro, stridettero le 5. Afferrai il mio berretto di pelo e, cercando di non guardare Apollon, che fin dal mattino aveva sempre atteso da me il pagamento del salario, ma per sua stupidità non voleva mettersi a parlare per primo, scusciai via dalla porta, passandogli davanti, e su una vettura che avevo noleggiato apposta con l'ultimo mezzo rublo, arrivai da signore all'Hotel de Paris. Fin dal giorno avanti sapevo che sarei arrivato per primo, ma ormai non si trattava di priorità. Di loro non solo non c'era nessuno, ma trovai perfino a stento la nostra saletta. La tavola non era ancora del tutto apparecchiata. Che cosa voleva dire questo? Dopo molte domande riuscii finalmente a sapere dai camerieri che il pranzo era stato ordinato per le 6 e non per le 5. Questo lo confermarono anche al banco. Mi venne perfino vergogna di chiedere di più. Non erano ancora che le 5:25. Se avevano cambiato l'ora, in ogni caso, dovevano informarmene. La posta esisteva per questo e non espormi al ludibrio dinanzi a me stesso e non fosse che dinanzi ai camerieri. Mi sedetti. Un cameriere cominciò ad apparecchiare. Davanti a lui mi sentii anche più offeso. In aggiunta alle lampade che ardevano, furono portate nella stanza delle candele. Il cameriere non aveva pensato tuttavia a portarle appena ero arrivato io. Nella stanza attigua pranzavano, a tavole diverse, due tetri avventori che avevano un aspetto irritato e tacevano. In una delle stanze più lontane c'era un gran rumore, gridavano perfino, si sentiva lo sghignazzare di tutta una brigata di gente, si sentivano degli orribili strilli in francese. Era un pranzo con delle signore. Insomma, la cosa era molto nauseante. Di rado avevo passato un momento peggiore, sicché quando alle 6 in punto essi comparvero tutti insieme, io nel primo istante me ne rallegrai come se fossero stati dei liberatori e per poco non dimenticai che dovevo avere l'aria offesa. Thank you.